Saconcetta, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Pì, vero mi dite? Ma queste sono notizie belle, le cose belle si devono dire a tutti. Aspettate però, pare che il bambino abbia una piccola malformazione. Bì, ha una piccola malformazione. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa. State tranquilla, voi lo sapete, io sono una tomba. Comare Carmela, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Bì, vero mi dite? Ma queste sono notizie belle, le cose belle si devono dire a tutti. Aspettate però, pare che il bambino abbia una piccola malformazione. Ci manca una ricchia, bì, ci manca una ricchia. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa. State tranquillo, voi lo sapete, io sono una tomba. Sa Rosa, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Bì, vero mi dite? Ma queste sono notizie belle, le cose belle si devono dire a tutti. Aspettate però, pare che il bambino abbia una piccola malformazione. Ci manca una ricchia, un piede senza le dita. Bì, ci manca una ricchia, un piede senza le dita. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa. State tranquillo, voi lo sapete, io sono una tomba. Lucia, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Bì, vero mi dite? Ma queste sono notizie belle, le cose belle si devono dire a tutti. Aspettate però, pare che il bambino abbia una piccola malformazione. Ci manca una ricchia, un piede senza le dita, nel naso c'è narici. Bì, ci manca una ricchia, un piede senza le dita, nel naso c'è narici. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa. State tranquillo, voi lo sapete, io sono una tomba. Amalia, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Bì, vero mi dite? Ma queste sono notizie belle, le cose belle si devono dire a tutti. Aspettate però, pare che il bambino abbia una piccola malformazione. Ci manca una ricchia, un piede senza le dita, nel naso c'è narice e una mano a sette dita. Bì, ci manca una ricchia, un piede senza le dita, nel naso c'è narice e una mano a sette dita. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa. State tranquilla, voi lo sapete, io sono una tomba. Agata, avete sentito? La moglie di Tanino Giarrusso ha fatto un figlio. Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisce. Sogno un campagna e aspetto un pisce, perché un pisce prima o poi arriva pure un campagna. Ascolta bene, figlio mio, ora ti conto una storia, stai attento. C'erano una volta tre frate, uno nuro e due sfugliate. Se ne ero a caccia senza scopetta, vittero tre lepre e ci sparano. Una fu io e due scappano. Uno di questi tre frati era con un nera, era figlio di patunera, e sa pace non era nato e facevo fasceggiaro, l'apicoltore. Gnonno perse una lapuzza, orba, sciancata e campanara, e incominciò a cercarla. E cammina, cati cammina, anche un giorno poco di gente, brava gente. Ha tu visto una lapuzza, orba, sciancata e campanara? Più avanti ce n'è una. E cammina, cati cammina, anche un giorno altro poco di gente, brava gente. Ha tu visto una lapuzza, orba, sciancata e campanara? Più avanti ce n'è una. E cammina, cati cammina, anche un giorno altro poco di gente, brava gente. Ha tu visto una lapuzza, orba, sciancata e campanara? Più avanti ce n'è una. E finalmente arrivò la lapuzza. Oh, lapuzza mia, cagami miele, e ci cagò tre cantara di miele. E ora un nimetto, infilama una vitturina e trova tre pirocchi, le scaccia, le uncia e fa tre uci, e ci infilò tutto giù mele. E ora come le porto? D'una incauce intanto impune, e nesce lo scecco con tutto vardone, e ci caricò tutto giù mele. Lo scecco, sotto tutto giù piso, camminava a racio. Allora l'uomo pigliò l'accetta e ce ne dese in corpo un dalla iamma. Ma invece di dare il cillo do lato do ligno, ce lo dese do lato da lama e ci tagliò la iamma. Lo scecco, per lo dolore, cominciò a correre forte. Allora l'uomo pensò, cusate che corre forte se ci taglio un'altra iamma. E ci tagliò l'altra iamma. E lo scecco s'ancunucchiò in terra. Nacendo, capite tutta la scena, ci disse, bestia, che combinaste? Allora l'uomo s'incazzò, pigliò l'accetta, ce la tirò all'aceto e l'ammazzò. E in terra le pinne dell'aceto ammucciarono l'accetta. Allora l'uomo pigliò un posporo, ci dese a fuoco alle pinne, l'umanico arrestò e la lama s'abbruciò. Spugnendo porte e rompendo palate, su non era pronto a farmi la croce, muscogliuna avesse ammazzato 300 crape. Avrebbe fatto meglio ad accontentarsi. Hai capito, figlio mio? Nella vita bisogna sapersi accontentare. Nella vita al minimo bisogna sapere di doversi accontentare, è per questo che ci vuole esperienza. Ci vuole esperienza e pazienza nella vita, e io ne ho tanta, di pazienza intendo. Perché vedi, avere pazienza costa, e avere dei sogni che non costa, è gratis, nessuno ti chiede niente, e avere pazienza che costa, e avere delle cose da fare che costa, e accettare di avere delle cose da fare che costa, e farle basta che costa. Beato chi non ha bisogno di cose da fare, figlio mio. Oggi sogno stanco, Lo so che non sappo la terra, però sono stanco, mi dolono i pere. Piglia fatture, registra fatture, parla coi clienti che non vogliono pagare, parla coi fornitori che vogliono essere pagati, lo so che non è zappare la terra, però sono stanco. E io quando sono stanco, piglia e mi faccio caffè. Ora ti insegno come si fa il caffè, così quando sei stanco, piglia e ti fai il caffè pure tu. Per fare un caffè come i cristiani, c'è chi lo pressa, c'è chi lassa un poco più ammascato, c'è chi fa la montagnetta, c'è chi addirittura piglia uno stuzzicadente e ci fa 4-5 buchi. E tutti, alla fine appena un caffè ne esce, pigliano un cucchiarino e un semino. Io no. Per me la differenza tra un caffè che si può vivere e un caffè che non si può vivere la fa l'acqua. Sì, lo so, a temperatura, a tostatura, a coppola d'ozzo Vicenzo, lo saggio, però per me la differenza fa l'acqua. A meno io la penso così, poi ognuno fa quello che vuole. E poi, dopo che ti piglio caffè, pigli e te leggi un giornale. Ah, se no che relax è. Vedremo che minchiate che sparo il giornale, va. La protesta dell'arcivescovo. Assessore, non mi dimetto. Però il calcio in annaucio che si dimette, sogno una nuova generazione di politici cattolici, Caltanissetta dove la vita è più salata, passeggiare in una strada vera è un'altra cosa, record dei punti del Catania, investimenti bloccati, aste giudiziarie. Oh, c'è un articolo che parla della zona nostra, qua, senti. Megara Iblea, vicino Siracusa, è un sito poco conosciuto al pubblico. Ma passeggiando tra le sue rovine è quasi possibile far rivivere un'antichissima avventura. Tutto parte da una piccola città della Grecia, Megara Nisea. Un uomo di nome Lannis raccoglie intorno a sé attrezzature, navi e soprattutto dei giovani disposti a mettersi in gioco e provare il tutto per crearsi una nuova vita in una terra lontana, la Sicilia. Una volta sbarcati nella Sicilia orientale, Lannis cerca l'appoggio dei coloni calcidesi, che hanno da poco fondato Leontini. La convivenza tra i due gruppi di coloni è però difficile e dopo poco tempo Lannis ed i suoi vengono espulsi da Leontini e devono trovare rifugio nel vicino centro indigeno di Tapsos, dipendente dalla potente Pantalica. Lì il re Iblone dona ai coloni un'ampia pianura ove costruire la città. La nuova colonia viene chiamata Megara Iblea in onore della madrepatria e del re Siculo e si trova di fronte all'attuale Augusta. Oh, campo, accendiamoci! Il destino non favorisce i megaresi e la loro città ha una vita breve, perché dopo appena 250 anni, nel 483 a.C., viene distrutta dai vicini della potente Siracusa. Così le rovine della città sono rimaste congelate alla sua fase arcaica. Camminando tra le rovine di Megara Iblea è possibile vedere i resti dei suoi edifici sacri e pubblici, l'agorà, la piazza principale, il pritaneo, dove si riunivano i magistrati della città, i templi e i santuari. Una cosa salta all'occhio anche dell'osservatore meno attento. Le rovine di Megara Iblea si trovano in mezzo alle raffinerie. O sono le raffinerie che si trovano in mezzo alle rovine di Megara Iblea? Qua una volta era tutta campagna. Qua erano tutti i peperoni. Minchia, i peperoni che denunciano, i pipi, quelli belli, stretti e lunghi. Chi sa arrostuti? I pipi arrostuti si fanno in questa maniera. Tu prendi un peperone, lo metti sopra la funnacella, quando diventa tutto nero lo metti dentro un sacchetto di carta, come a chi tuo pane. Poi si raffredda, lo pulisci bello pulito, lo fai in listarelle, lo metti in una ciotola, ci metti un poco di sale, qualche spicchio d'aglio e un poco d'olio e tu mangi. C'è chi dice che è pesante, che non si digerisce. Allora tu piglia e ci smunci mezzo limone, che lui lo alleggerisce e lo puoi digerire. Con limone tutto cosa digerisci, pure i pesci te puoi mangiare. Ampare, dillo come si fanno i piparostuti con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperli fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. Appresso c'era la campagna del Supermelo, erano tutte melanzane. Minchia, i melanciani. Chi ha pasta che è melanciane? La pasta che è melanciane si fa in questa maniera. Si presenta a strati. Tu prima metti la pasta, poi metti il sugo di pomodoro, poi ci metti i melanciani fritti. Non ti fare convincere da tua madre che dice le melanzane si possono fare pure arrostite che sono buone uguali. Uguale sta minchia, i melanzani si fanno fritti. Ma poi piglia. E c'è tu una bella rattata di ricotta salata. E alla fine, di sopra, un capo. Come quando, prima di uscire di casa, ti metti in testa un bello cappello. Ci metti due o tre foglie di basilico, caiggio, fanciauro, canasca, sassegria. Ampare dilla come si fa, basta che mi lanciare con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperla fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. Cassute erano tutte broccole, cavole, cappuccio, tutta roba buona. A Giabbannassata c'era lo zio Vicenzo che aveva le pecore e le capre e faceva un primo sale, un formaggio per rattare, la ricotta. La ricotta poi veniva in paese e la vendeva. Veniva con una vecchia motocicletta rossa, si chiama Motom. Arrivava in paese e si metteva a bagnare. A ricotta! A ricotta! E le donne del paese lo chiamavano dei ricotti, dei ricotti. Facevano una gara che gli dava di più, capito? E le donne gli dicevano quello che gli serviva. Zio Vicenzo, una ricotta. Zio Vicenzo, due ricotte. Zio Vicenzo, tre ricotte. Quattro ricotte, cinque ricotte, sei ricotte, sette ricotte. Pareva l'asta. Che io le ricotte le portava nelle cavagne, che sono dei contenitori cilindrici fatti con la canna. Ma ormai l'unità di misura era diventata una ricotta. Me mace, tua nonna. Racconta sempre che quando io ero un picciriddu di 2 anni, una volta mi mangiai il cerregotte. Cerregotte, verità sua, assai di un picciriddu di 2 anni. Cerregotte se ne metti una sopra l'altra, sono più alte di un picciriddu di 2 anni. Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisci. Sogno un campagna e aspetto un pisci, perché un pisci prima o poi arriva con un campagna. Pescamo cadaveri, andiamoci. A me mi piace il pesce. Io mangio un sacco di pesce. Mangio i zarebbe fritte, i urei fritte, uparebbe fritte, frittura di paranza. Ah, non è che mangio solo fritto pesce, mi piace anche il brodo di pesce, la zuppa. Però per fare il brodo ci vogliono pesci di scoglio, scolfani, cipulli, pecchi, lappe. Poi mi piace anche arrostito, mangio un mascolino arrostuto, anciova arrostuto, gli sgummi. Un pesce spada, il tonno. Il tonno noi lo facciamo anche con i peperoni o con la cipolla. Ma il piatto tipico del nostro paese è il tonno con i peperoni. Adunnina che pipi. Adunnina che pipi si fa in questa maniera. Tu prendi una bistecca di tonno, la metti in una padella e ci metti un filo d'olio. A parte, prepari i peperoni arrostiti. Oh, ti ho detto prima come si fanno i peperoni arrostiti. Se ti scordi le cose, pigli appunti. Ma poi quando sono pronti metti tutta assieme in dalla patente d'autunno e ci dura una bella mascata. E poi alla fine, di sopra, un capo. Come quando, dopo che ti fai la barba, ti dura una bella spruzzata con dopo barba che tu capo un petta. Piglia ci dura una stemperata d'acido che idro evapora che fa inciauro che nasca sargegria. Ampare dilla come si fa a tunnina che vive con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperla fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. A me mi piace il pesce, io mangio un sacco di pesce. Il pesce è pieno di fosforo e fa bene alla memoria, infatti io mi ricordo un sacco di cose. Se tu mi domandi una cosa, me la ricordo, domandami una cosa. Domandami una cosa. Chiedimi una cosa. Me la ricordo. Il pesce è pieno di fosforo e fa bene alla memoria, la polenta ti fa scordare le cose. C'è un amico mio che abita in Lombardia, ci fanno mangiare un sacco di polenta, non si ricorda più una minchia. Mi hanno detto addirittura che è in Veneto fanno la polenta col pesce, la polenta col polpo, la polenta col pupo, ma che su cose che si fanno, viste? La polenta col pupo. Ha mordito pupo e col limone, bollito e poi condito con il limone. Il polpo bollito si fa in questa maniera. Tu prendi un polpo, lo metti dentro una pentola con l'acqua fredda e lo fai cuocere per 20 minuti, mezz'ora, dipende dalle dimensioni del polpo. Perché sto caccio vuole mensura. Ogni tanto prende una forchetta, ci azzicchi per vedere a che punto è la cottura. Poi quando è pronto spegni e lo fai raffreddare nella sua stessa acqua. Poi lo tiri fuori, lo tagli a pezzettini, lo metti in una ciotola, ci metti un poco di sale, un poco d'olio, qualche foglia di menta e piglia e ci smungi mezzo limone. Ampare, dillo come si fa il polpo bollito con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperlo fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. Minchia, quante cose puoi fare con limone. Con limone puoi fare la limonata, ci puoi condire l'insalata, la carne arrostita, il pesce arrostito. Puoi fare la granita di limone. La granita puoi fare come vuoi. La puoi fare di mandorla, al caffè, al cioccolato, puoi fare di gelso, di pesca, di albicocca, di anguria, di melone, come vuoi. Quella che io preferisco è quella al limone. D'estate, di mattina, ti picchi in un bello bucale di granita con una brioche calda. A chi tu dica a fare a te che sei nato a novembre, ma che ne sai? Che limone. Che limone e candeniao ce l'hanno portato gli arabi. L'hanno portato gli arabi, sono originari dell'estremo oriente, dalla Cina, dell'India, del sapato gioco. Ma candeniao ce l'hanno portato gli arabi. Erano conosciuti in tutto il mondo antico. Alessandro Magno li usava prima di muovere battaglia. Gli antichi egizi li mettevano dentro le tombe, gli antichi greci erano talmente innamorati dell'albero di limone che lo usavano come pianta ornamentale. L'albero di limone è bello, arriva fino a 6 metri. Le foglie quando sono giovani sono gialle, quando invecchiano diventano verdi, o contrario. Calarebe e Candeniao ce l'hanno portato intorno all'anno 1000. I primi a coltivarlo sono stati i preti gesuiti e poi piano piano l'abbiamo esportato in tutto il resto d'Italia, fino a Genova per dire, così, no? E anche nel resto d'Europa. In America i limoni ce li abbiamo portati noi con Cristoforo Colombo. Ah, se non c'eravamo noi in America che conoscevano i limoni, i mandarini, le arance? Se non c'eravamo noi in America che conoscevano l'aranciata? Quindi, se ci pensi, Afante è siciliano. Ma poi dici che portiamo solo cose brutte in giro nel mondo. Se non c'eravamo noi, minchia. Pure l'arancia può fare un sacco di cose. Puoi fare l'insalata d'aranci? L'insalata d'arancia si fa in questa maniera. Tu prendi un cipollotto, lo tagli a listarelle o a rondelle, come vuoi tu. Poi ci metti due capperi, se ti piacciono ci metti le olive. Poi ci metti un poco di sale e alla fine, di sopra, un capo trionfante. Come quando un re, prima di affacciarsi al balcone per parlare col popolo veggiano, si mette in testa una bella corona. Piglia, ci mette una bella arancia tagliata a spicchi, pulito, pulito. Poi ci mette l'olio e ci smunci mezzo limone. Ampare, dillo come si fa l'insalata d'arancia con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperla fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. Chi sta a mangiare, però? Amolenta. Sai quanto cosa puoi fare con arance? Puoi fare l'aranciata, l'anatra all'arancia. Ci hanno fatto pure un film sull'arancia. Anche con i mandarini puoi fare un sacco di cose, puoi fare il mandarinetto. In effetti con i mandarini puoi fare meno cose. Però una volta due amici miei che hanno un ristorante mi hanno fatto mangiare il filetto di cernia col succo di mandarino, troppo buono. Che filetto di cernia? La cernia è un pesce furbissimo. Io quando ero più giovane facevo pesca subacquea. E una volta sono diventato amico con una cernia, amico per modo di dire, nel senso che non mi interessava spararci, mi piaceva andare in giro con lei a guardare i fondali. Un giorno vado sotto, vedo la cernia da lontano e invece di andarsene in giro come faceva di solito, si ferma e mi talia. Mi guarda fissa, pareva incementata, incantesimata, con quei labbroni, pareva una femmina quando vuole dare un bacio. A un certo punto mi accorgo che mi mancava l'aria perché io andavo sotto in apnea. Mi guardo intorno e mi accorgo di essere dentro una grotta. Mi aveva portato a casa sua nella sua tana, capito? Si fidava di me. Perché la cernia quando è ferma, pare che è ferma. Ma in realtà con le pinne laterali si muove e va all'indietro. Meno male che mi sono accorto in tempo di essere dentro una grotta. Ha capito? Mi avesse potuto ammazzare per amicizia, minchio, filetto di cernia con succo di mandarino e come dolce una pera cotta al forno, ripiena di ricotta e di sopra i pistacchi. Maria che manciata che mi fici, macchina. Pure i pistacchi l'hanno portato gli arabi. Sono originari del Medio Oriente, loro li chiamano fustuac. Noi li chiamiamo pistacchi, il nome è onomatopeico. Quando un nome viene dal rumore che fa una cosa. Il pistacchio quando matura si apre e fa pistacchio. Allora mi chiamato pistacchio, capito? Loro l'hanno portato id, sempre d'arabe. Che i pistacchi può fare un sacco di cose, ma la funzione più importante del pistacchio è controllare le gelaterie. Se il gelato a pistacchio è buono, vuol dire che il gelato lo sanno fare. Se ti presentano il gelato a pistacchio colore verde evidenziatore fosforescente, tu picchi e c'è un coppo nell'entrata di sto gelatato. Ma per dire che non lo sanno fare. Se non c'erano gli arabi, noi tante cose neanche le conoscevamo. Ora pare che portano in giro solo le bombe. Se non c'erano gli arabi, certe cose manco le assaggiavamo. Ah, che sapevano gli arabi? Gli arabi poi, candene auge, sono arrivati allo sbarcatore. Almeno così dicono gli anziani. Lo sbarcatore è il posto dove io andavo a mare quando ero bambino. Il nome completo è lo sbarcatore dei turchi. Gli auge, per risparmiare, lo chiamiamo lo sbarcatore. Se non c'erano gli arabi, noi a quest'ora non avremmo manco la festa del paese, San Domenico, San Numinico, perché San Domenico ha liberato la zona dai saraceni. Non è che non avremmo la festa, ce l'avremmo lo stesso, ma con un altro santo. Non è che puoi cambiare il santo, ormai ci siamo affezionati. La festa di San Domenico è il 24 di maggio. Il giorno prima, per la vigilia, portano in giro in processione un braccio d'argento con una spada. Dicono che dentro c'è la reliquia del santo. L'indomani per il 24 portano in giro tutta la statua e poi fanno le corse con i cavalli e ci sono i bancarelli che vendono di tutto, soprattutto caglia e semenza, troppo buona, però non esagerare che te viene una sete. Bibidi bi, bibidi ba, fatti fare a vestine tamà, a così cantavano l'antichi, proprio ad indicare la festa come un nuovo inizio. E infatti c'era chi comprava i vestiti, chi sazzetava, si fidanzava, chi bettava la casa. E poi la sera tutte a mare, a Badiazza, a vedere un luogo fuoco, i fuochi d'artificio. Sono i fuochi d'artificio più belli del mondo. Ah, lo so che non sono i più belli del mondo, ma a me mi piace pensarlo. Che si festeggiava sempre a dei tempi. Per carnevale si cantava San Mastiano, maschere in chiaro. Per la quaresima, in alcune case, venivano coperti gli specchi con un velo nero. E poi passava la Serra Manica. La Serra Manica era una donna vestita di bianco e la gente le dava quello che aveva, due uova, un poco di frutta, un poco di verdura, e poi arrivava la Semana Santa. Per la Settimana Santa si festeggia ogni sera. Il lunedì c'è la Madonna dell'Itria e la processione la organizzano i campagnoli. Il martedì c'è San Giuseppe Puzzi Annunziata e la processione la organizzano i pescatori e gli artigiani. Il mercoledì c'è l'ultima cena e la processione la organizzano i massari. Il giovedì c'è la cerimonia della lavata dei piedi. In ogni chiesa, durante la messa, a un certo punto, il prete ci lava i piedi a 12 persone a raffigurare i 12 apostoli. E poi si faceva il giro dei sepolcri, che rappresentavano il sepolcro di Gesù. Li dovevi visitare il numero dispari, che se no porta sfortuna. Io, quando ero ragazzo, con amici miei, li visitavamo il numero dispari. Uno è dispari. Ma su, antiche credenze, che non si sa nemmeno da dove derivano queste case. Ma tu, nel dubbio, visita il numero dispari. Va bene che tu da grande studierai ancora di più, a queste cose gli darai il peso che si deve dare, la giusta importanza. Oh, parliamoli chiaro, non sei obbligato a studiare, eh? Se vuoi studiare, studi, se non vuoi studiare, te ne vai a cavaliere di piccirillo. Ah, non si può fare ora, fino a 14 anni devi studiare. Non è come a quei tempi se non studiavi, gli facevi un favore, caputtavo dei picciuli a casa. Se non ne vai a scuola, pigliati e non vai a travagliare, o sciazzone! A così dicevano antichi. Ora ti spiego che cos'è lo sciazzone, che se non ti spiego tu alla fine di questa discussione dici ma che cos'è lo sciazzone? E invece ti spiego, così tu alla fine di questa discussione dici ah, ora saccio che cos'è lo sciazzone. Ma tu mi capisci quando parla? Secondo me sì. Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisci. Sogno un campagna e aspetto un pisci, perché un pisci prima o poi arriva con un campagna. Usciazzuni era il posto dove si pestava la creta. La creta per fare i bummoli, i guattari, per fare i vasi. E la pestavano a scalzi. infatti dici che prima avevano tutti i piedi belli lisci e vellutati, che la creta fa bene alla pelle. A quali piedi belli lisci e vellutati? Che i bambini giocavano scalzi in mezzo alla strada, giocavano a muccicchia che sarebbe a nascondino, giocavano o ciavulongo, o quaciato, a torre, assato a quacciocchi. Senti, non è che le posso spiegare tutte cose. E giocavano scalzi pure o pallone. O pallone ora. O pallone per modo di dire. La situazione era questa. C'erano 30-40 bambini che giocavano scalzi appresso a una palla di pezza fatta con le pezze che le madri buttavano in strada. E questi bambini raccoglievano tutte queste pezze, indugiunavano. Se lo trovavano usavano un pezzo di scotch oppure la legavano con un pezzo di spago. E iniziavano a giocare che la palla era così. E finivano che la palla era così. Perché ogni calcio partiva un pezzo di pezza della palla fatta con le pezze che le madri buttavano in strada. Oppure giocavano con la vescica del muoio, la vescica del bue. Andavano al macello che si trovava dietro il convento dei Cappuccini. Si facevano dare la vescica di un bue, la lavavano bella pulita, la gonfiavano e chi suonava i palloni. Ma anche quello durava niente, 4-5 calci e scoppiava pure chisso. A quale piede belle lisce e vellutate che i bambini giocavano scalzi in mezza strada. Le strade di allora non è che erano come quelle di adesso, tutte asfaltate. Quelle erano ciazzere, mulattiere, strade di campagna, piene di pietre. E quindi questi bambini, una volta gli davano un calcio alla palla fatta di pezza, una volta gli davano un calcio alla palla fatta con la vescica del bue, e una volta gli davano un calcio a una pietra. E oggi capite, belle lisce e vellutate, che i bambini giocavano in strada. Che a quei tempi si poteva giocare in strada. Non è come adesso che non puoi manco attraversarla, che è piena di macchine. A quei tempi macchine non ce n'erano, se c'erano erano poche, che pochi si potevano permettere di comprare una macchina. E oggi capite, belli lisci vellutati, che i bambini giocavano in strada. Quando c'era il sole, su chioveva, giocavano un tomazè. Un mazè è il magazzino delle case dei pescatori. Le case dei pescatori erano fatte in questa maniera. Tu entravi e c'era un quadro dell'Annunziata, due sedie e un pezzo di cartone appoggiato al muro. Sto cartone i nonni se lo mettevano sulle gambe uno di fronte all'altro e facevano un tavolino per giocare a carte. Giocavano a scuba, a briscola, a cessette, a tiviti. A tiviti si gioca in questa maniera. Tu prendi le carte, ne dai 20 all'altro e 20 te le tieni tu e giri una carta a testa. Lo scopo è mettere sulla carta dell'avversario un punto più alto o più basso. Per esempio, se l'altro c'è il 5 di coppe, tu sopra ci puoi mettere o un 6 o un 4. Vince chi finisce prima le carte. Se tu potevi fare una mossa e non l'hai fatta e l'avversario se ne accorge, ti dice: ti vitti! Ti ho visto, hai capito? Andare, dillo come si gioca a ti vitti con la giusta sequenza, figlio mio. Che saperlo fare con la giusta sequenza fa la differenza tra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa. Appresso c'era un divanetto e due polcioncine, di quelli che ora chiameremmo vintage, che a gusto non ho più la testa, a me mi parevano solo brutte. Poi c'era il tavolo di legge e lo scrittoio. Lo scrittoio ce l'avevano le case dove tutte e due i nonni sapevano leggere e scrivere. La casa che ho visto io, tutte e due i nonni sapevano leggere e scrivere. E chi sta era la prima stanza. E poi avanti c'era un tavolo con delle sedie, un armadio e un buco, un dodetto covicio per far entrare la luce. E chi sta era la seconda stanza. Poi ancora avanti c'era lo spatte camera, un separè di cartone, che lo facevano apposta per creare un po' di intimità per fare a stanze letto, perché nelle case dei pescatori le stanze erano comunicanti l'una con l'altra. Allora mettevano sto separè, tu entravi e c'era l'armadio, il letto, due comodini, porcioncine e un cantarano. E chi stava a camera e letto? E poi ancora avanti c'era un lettino, un armadietto, un cantaranello e un altro buco, un dodetto col vetro per far entrare la luce. Lì dormiva la bisnonna e questo era lo stanzino. E poi ancora avanti c'era una credenza, i fuochi, tutta l'accezza per cucinare e un tavolo, l'ombo, 12 seggi. E questa era la cucina. Poi ancora avanti arrivavi nell'orto. C'era di sto lato un albero di gelsomino che faceva un giaulo incredibile. Ma poi c'era la scala che ti buttava andata a terrazza e sulla scala la porta del bagno. Perché dici che prima i bagni non erano dentro la casa, erano fuori. E poi se riuscivi a superare il muro di profumi, di basilico, menta e origano, finalmente arrivavo tu davanti a Umazè. Umazè era un parco giochi, un parco divertimento. C'erano attrezzi di tutta la famiglia, un martello di tanano, la serra da zio, un cacciavite da pace. I bambini si divertivano perché dici che prima i bambini i giocattoli si ricostruivano da soli. Io quella casa la conosco molto bene, che era la casa dei miei nonni. E ogni volta che sento il profumo del gelsomino, mi viene in mente mio nonno Tanino. Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisci. Sogno in campagna e aspetto un pisci, perché un pisci prima o poi arriva con un campagna. Raccontava sempre che quando lei era bambina era talmente tanta la fame e la miseria che si mangiavano pure i piccioni. I piccioni adesso li trovi nei ristoranti dove fanno la cucina ricercata, costano un sacco di soldi. A quei tempi i piccioni erano mangiare per poverazzi, per pizzenti. A me mi piacciono i piccioni. A te ti piacciono i piccioni? Ah, così, senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace così senza motivo. T'avessero cagato in testa, posso capire che è fastidioso. Ma se non t'hanno mai cagato in testa, come fai a dire che non ti piacciono i piccioni? A così senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace così senza motivo. A me mi piacciono i gabbiani. I gabbiani mi piacciono perché quando volano mi danno il senso della libertà. A te ti piacciono i gabbiani? Eppure i piccioni volano. Allora perché i gabbiani ti piacciono e i piccioni non ti piacciono? Ma così senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace così senza motivo, Mia nonna mi raccontava sempre che quando lei era bambina prendevano i piccioni, li spennavano, li lavavano belle pulite e poi ci facevano un sugo che i piccioni. A me mi piace il sugo che i piccioni. A te ti piace il sugo che i piccioni? A così, senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace a così senza motivo. L'avessi assaggiato, ti è venuto dolore di panza, cacarebbe, lo posso capire. Ma se tu non hai assaggiato mai, non ti è venuto dolore di panza, cacarebbe, come fai a dire che non ti piace il sugo dei piccioni? A così, senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace a così senza motivo. A me, per esempio, la cippa non mi piace. Però prima l'ho assaggiata. E per giunta l'ho assaggiata 3 volte. La prima volta per la festa di San Giuseppe, la seconda volta a casa di mia nonna, la terza volta a casa di mia zia Malluccia. E poi, con coscienza, ho detto a mia cippa non mi piace. Ma se tu non l'hai assaggiato mai il sugo dei piccioni, come fai a dire che non ti piace? A così senza motivo. A un motivo ci deve essere, non è che una cosa non ti piace a così senza motivo. Vai, La prima volta ti disse per la festa di San Giuseppe. La festa di San Giuseppe si fanno un sacco di cose. Si fa un cugiurone. Un cugiurone è una pizza alta così. Ci metti il pomodoro, la cipolla, l'origano e le acciughe. Poi si fa la minestreggia di San Giuseppe. Tu metti assieme tanti tipi di pasta, tanti tipi di legumi, di verdura, di ortaggi. Poi passavano i monaci, la prendevano e la davano ai poveri. Secondo me l'avevano inventata per pulire le credenze. Perché loro le svuotavano, sai quando ti restano 30 grammi di pasta che non servono a niente? Allora loro le mischiavano tutte assieme, svuotavano le credenze e le pulivano. Almeno io la penso in sta maniera. Ma la cosa più importante della festa di San Giuseppe era l'asta di San Giuseppe. Di fronte alla chiesa c'era un'asta e si vendeva di tutto. Iaggini, conigli, caprette, agnelli, cassette di frutta, borse di verdura, di tutto. Ma il pezzo più pregiato era il bastone di San Giuseppe. Un torrone, un croccante alto fino a 4 metri a forma di bastone. Chi offriva di più se lo portava a casa, così per devozione. Minchia, quando si festeggiava, per esempio, feste, tradizione, usanze. Ora non sapete neanche dove sono di casa queste cose. A Tarravecchia, per la Madonna del Rosario, si portava in giro la varicella, una piccola bara. E poi si faceva la pampaniglia, che è un falò. Sempre nella zona di San Giuseppe, nei Vicoletti, per la Madonna Assunta si faceva un altro falò. Per l'Ascensione alcune famiglie prendevano un poco di acqua del mare, bagnavano il pavimento e ci cantavano. Ti saluto, acqua di mare, io ti vengo a salutare, come arricchisti lo bastimento a mare, a così la mia casa a confortare. E poi arrivava maggio. Maggio è il mese della Madonna e delle rose. Maggio è il mese più bello e più profumato dell'anno. Maggio è il mese delle disgrazie, infatti non ti potevi maritare, dovevi solo pregare. In alcune famiglie a maggio facevano la spira di maggio. Prendevano i mobili, li accatastavano uno sopra l'altro in un angolo della casa e ci pregavano di fronte. Il 13 di giugno con 13 kg di farina facevano i paronzetti di Sant'Antonio e anche quelli poi li davano ai poveri. Il 24 di giugno, se due famiglie volevano entrare in comparato, facevano un pupo di San Giovanni, che era un dolce a pasta dura a forma di pupo, di bambino. Mettevano due grani di pepe per fare le narici e poi lo vestivano come un bambino a festa, pieno di narcini colorati. Ma così facevano. Poi, per esempio, per San Pietro e Paolo facevano una ghiumata, per la Madonna del Carmelo facevano una antinna a mare, divertentissima. Il giorno prima di Ferragosto, per la vigilia, a mezzogiorno, buttavano l'acqua in strada per rinfrescare l'anima dei morti. Questa cosa si fa anche adesso che ci sono i palazzi. La vigilia di Ferragosto a mezzogiorno buttano l'acqua dal balcone. Infatti la vigilia di Ferragosto a mezzogiorno in giro non c'è nessuno, che se te bagni non ti puoi incazzare, che è una tradizione antica. La vigilia di Ferragosto a mezzogiorno in giro ci sono solo forestieri. Cioè si festeggiava sempre di tempo, a settembre, a ottobre, a novembre. E nonostante la fame e la miseria, poi finiva tutto a mangiare e a bere. A vivere e a mangiare e a vivere. A proposito, mi vieni in sita mia? Ora mi faccio un bicchiere di vino. Ha capito, figlio mio? Tutto finisce a mangiare e a vivere. Un colore bello. Puro ciao. Sincero. C'era suolo di vittoria. E che dire, figlio mio? Quando ne mettiamo a mangiare a vivere, ne passano tutte cose. Quando ne mettiamo che è bere sulla tavola, si ferma tutto. Ne passano i pensieri, le preoccupazioni, ne passano pure le speranze. Per una volta l'animale torna a prendere il sopravvento sull'uomo. I leoni, per esempio, se hanno la pancia piena, che non hanno fame, passano tutta la giornata fermi sotto un albero all'ombra a non fare niente. La gente vola nel suo cielo, ha sempre trovano qualche zanzara, qualche verme, e i succi, i topi. Ormai hanno imparato a mangiare di tutto. E in Africa i coccodrilli, sempre c'è qualche gnuca vuole attraversare il fiume. Eppure l'enorme e possente balena sta ferma, ha un capetto e mangia miliardi di microorganismi. Noace no. Noace siamo travagliare. Noace siamo l'unico animale che per mangiare deve fare più sforzo. Noace siamo l'animale superiore. Evoluto, pensante. Noi ci siamo talmente evoluti che per mangiare dobbiamo fare più sforzo degli altri animali. Un travaglio è l'invenzione dei ricchi per sostituire la schiavitù. Prima c'erano gli schiavi che costruivano le piramidi, ora ci siamo noi che travagliamo. E un travaglio ti consuma la mente, i pensieri, ti consuma le mani, la faccia. L'evoluzione. A dire che siamo minchioni, figlio. Qua prima travagliavano tutte a mare o in campagna. Qualcuno lavorava alla salina. La salina inizia a lavorare all'alba fino alle 11. Poi riprende dopo pranzo fino alle 5. E si lavorava a petto nudo, con una canottiera, che mutande o che pantaloncini. E si stava a scalzi a mordere lo sale. Chi non reggeva si metteva le scappuniere, che sono dei pezzi di camera d'aria legati con lo spacco. Tutto ionno a moggio sale. Gli auci, capite, belle lisce vellutate. Qua prima c'era gente che aveva 30 anni e pareva che ne aveva 70. Ma poi ci siamo evoluti. Qua prima c'era gente che moriva a 30 anni e non si sapeva nemmeno per che cosa, ma poi ci siamo evoluti. Almeno ora sappiamo di che cosa si muore. Qua prima gente travagliava a mare, in campagna, viveva di pastorizia, c'era qualche artigiano. Le industrie erano talmente piccole e poche che non potevi nemmeno chiamarle industrie, ma poi ci siamo evoluti. E finalmente sono arrivate le industrie, quelle con la I maiuscola, le raffinerie. Perché qua nella provincia di Siracusa, nella zona di Montiblei, sono tutte raffinerie, il papà lavora lì. Perché vedi, figlio mio, l'arabi ne hanno portato i limoni, i mandarini, le arance, i pistacchi. Ma non hanno portato pure un fagiolo. Mio nonno faceva pescatore. Mio padre faceva l'operaio. Io faccio l'impiegata a raffineria e tu? E pensare che a chi sta in Magna Grecia? I greci qua da noi sono arrivati nel 736 a.C. da Corinto. Dopo aver sconfitto i siculi di Ortigia fondano Siracusa, prendendo in prestito il nome dalla palude Siraca. Siracusa è immediatamente un periodo di grande splendore, tanto da fondare a sua volta delle colonie. Il tiranno Gelone continua questo processo e suo figlio Ierone sconfigge gli Etruschi in battaglia. Durante la guerra del Peloponneso, Atene dichiara guerra a Siracusa, che era alleata di Sparta. Eppure gli Atenesi, dichiaro coppa, cacco, sì, come i conigli. Dionisio I fece costruire 22 chilometri di mura fortificate intorno alla città e fece erigere il castello Euriale, che controllava da un lato, dall'altro il mare e dall'altro lato l'entroterra. Siracusa diventa una città sensibile alle arti, ogni tanto veniva Platone e faceva qualche pensata. A Dionisio I successe Dionisio II, bravo, se ci pensi è logico, e poi ancora Callippo, e Parino e Niseo, e poi Sosistrato, Agatoche e Timoleonte, e poi ancora Gerone II, Ierone II e suo figlio Geronimo, come all'indiano, fino alla sconfitta coi Romani, ad opera del console Marco Claudio Marcello, Cinnomaco in Cristiano Sulu, nonostante la strenua difesa dei Siracusani e l'ingegno di Archimede. E di lì inizia il processo di cristianizzazione della città. Arrivano i Vandali e i Visigoti, e poi i Bizantini, per un periodo gli Arabi, poi ritornano i Bizantini, che fanno costruire il castello Maniace. Questa te la dico perché io nel castello Maniace ci ho fatto il militare. E poi ancora i Normanni, un periodo di protettorato genovese, gli Svevi, i Vespri, e poi gli Aragonesi, e poi il barocco meraviglioso, e poi i Borboni, e l'Unità d'Italia, il fascismo, la Repubblica, americani, tutti! Tutti ci hanno stato canti in auge. A mancavano i marziani e i buffi, e poi ci hanno stato tutti. E tutti. E tutti. Tutti hanno dato il loro contributo per la meraviglia che adesso è ancora Siracusa. Perché se tu ti fai un giro in centro per Siracusa, arrivi in Piazza Duomo, guardi la chiesa di Santa Lucia e dici: bellissima. Poi la guardi un poco meglio e ti accorgi che di lato ha delle file di colonne. Era il Tempio di Atena. Se tu dalla Piazza Duomo prosegui verso il mare, arrivi alla Fonte Redusa, una fonte d'acqua dolce a mezzo metro dal mare. Ora ti punto la storia di Aretusa. Aretusa era una ninfa della dea Diana e passava la giornata con le altre ninfe a cacciare caprioli e daini sull'Olimpo. Lei era la più bella tra le ninfe. Aretusa un giorno rimase attardata rispetto al gruppo. Quel giorno faceva un caldo incredibile e si accorse di trovarsi vicino alle acque del fiume Alfeo. Quelle acque erano limpidissime, meravigliose. Erano talmente pulite che potevi contare la ghiaia che c'era nel fondo. Lei non resistette alla tentazione di entrarvi e si spogliò nuda, lei nuda, e diventava rossa solo all'idea della vicinanza del masco. Ma appena entrò in quelle acque si accorse subito che c'era qualcosa di strano. Cominciarono a crearsi dei vortici e piano piano l'acqua cominciò ad abbracciarla come se fosse una tunica di lino e lentamente si trasformò in Alfeo, un meraviglioso giovane dai lunghi capelli biondi che appena vide Aretusa impazzì d'amore. Aretusa, preoccupata per la sua virtù, cominciò a scappare come fa l'agnello alla vista dello sparviero. E dietro Alfeo sempre più eccitato, come fa lo sparviero alla vista dell'agnello. E Aretusa, quando si accorse di non poterlo più distanziare, invocò la sua protettrice Diana. Camuffare. Muleve sto posto del cadavere. E così Diana la ricoprì con una fitta coltre di nebbia e la trasformò in sorgente d'acqua dolce e con l'incantesimo la mandò dalla Grecia alla Sicilia, dal Peloponneso a Siracusa, ad Ortigia. Appena la nebbia sparì, Alfeo si accorse dell'assenza di Aretusa e impazzì di dolore. E quel dolore attirò l'attenzione degli dei dell'Olimpo, eppure Zeus l'assoluto volle intervenire. Alfeo! Oh, lassù stare! Alfeo! Oh, detto lassù stare! Alfeo, sono Zeus! Detto lassù stare! Minchia Zeus! Vorresti rivedere Aretusa? Dovrai scavare un passaggio sotterraneo che ti porterà dalla Grecia alla Sicilia, dal Peloponneso a Siracusa, ad Ortigia. Te la senti? Va bene. E così Alfeo, lui mezzo fiume, con la potenza delle acque, e lui mezzo uomo con la disperazione delle mani, scavò questo passaggio sotterraneo che lo portò dalla Grecia alla Sicilia, dal Peloponneso a Siracusa, ad Ortigia, e lì incontrò nuovamente Aretusa, che si rivolse ancora a Diana. Diana? Minchia, ma allora mi ama più davvero. E vissero per sempre insieme, l'acqua dolce con l'acqua salata, la fonte Aretusa, una sorgente d'acqua dolce a mezzo metro dal mare, piena di papere, di papiri. È l'unico posto in Europa dove nasce spontaneamente il papiro. E di lì appresso il Mar Ionio. E di fronte i Monti Iblei. E accanto le raffinerie. È come se tu hai un bello piatto di spaghetti allo scoglio, con le vongole, le cozze, i fasolari, gli scampi, i gamberoni, un bello pezzo di pesce spada e ciangoppoli di sopra una cucchiarata di maionese. L'industrializzazione dei Monti Iblei inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cercare di penetrare i mercati internazionali. Giusto! E così portano da noi l'industria chimica e petrolchimica per la lavorazione del petrolio. Giusto, per cercare di portare sviluppo anche al sud. Giusto, e così intere zone piene di uliveti, mandorleti, alberi di frutta di ogni maniera, spiagge meravigliose e mari pescosissimi vengono completamente devastati per creare porcheria. Giusto, sbagliato. Tutto inizia nel 1948. Un giovane industriale milanese, Angelo Moratti, costruisce la Rason, raffineria siciliana oli minerali, e la costruisce ad Augusta. Augusta viene scelta perché si trova in una zona pianeggiante, per la facilità d'approvvigionamento idrico, per l'enorme presenza e disponibilità di manodopera a basso costo, perché si trova nella rotta tra Suez e Gibilterra, per la presenza di serbatoi interrati e per la presenza dei pontili della Marina Militare. Angelo Moratti acquista degli impianti in disuso in Texas, li carica su una nave, la Giacinta Fassio, che nel 1949 parte da Houston, arriva a Siracusa, scaricano l'impianto e incominciano a cercare un posto pieno di rovine greche dove poterlo rimontare. Oh, mettiamolo qua! Ma no, che fare, ma qua ci saranno solo qualche migliaio di vasi. Minchia, mettiamolo qua! Ma no, c'è solo una necropoli qua. Minchia, mettiamolo qua che c'è un'intera città, Megara Iblea, che tanto è disabitata! E così rimontarono l'impianto. Impianti americani, tecnici istriani, manodopera siracusana e rovine greche. Grande esempio di multiculturalità. E nella seconda metà degli anni 50 si parte. Arrivano i soldi dalla cassa del Mezzogiorno, che se all'epoca ci avesse stata la Lega, usate che bordello che avesse fatto. Ed inizia un vero e proprio miracolo economico. Dopo la Rasum, la liquilchimica, che utilizza paraffine lineari per la produzione di bioproteine. E poi la Cogema e l'Eternit, che è peggio ancora della maionese sugli spaghetti allo scoglio. E poi l'Edison, che investe i soldi guadagnati con la vendita di centrali elettriche allo Stato nel settore chimico e costruisce la Sincat, società industriale catanese. Nel 1953 viene costruita la centrale termoelettrica Enel Tifeo di Melilli. Nel 1970 l'ICAM, che produce ancora adesso 700.000 tonnellate all'anno di etilene. E poi ancora un'altra centrale termoelettrica sempre a Melilli, il depuratore consortile IAS. E poi l'ISAB, una raffineria costruita radendo completamente a solo un paesello, Marina di Melilli, un paese pigliato e cancellato da cartina geografica. E poi il rigassificatore della Erg, per non parlare di quello che hanno fatto a Gela. La stessa cosa, perché a Gela e nella provincia di Siracusa hanno cambiato i lineamenti del territorio. È come se il papà stanotte va a dormire e domani mattina se lo spiglia biondo. Fa impressione. C'era la speranza, però, che questo processo potesse portare ricchezza. La gente era abituata a travagliare per un pezzo di pane. In effetti questo processo è stato rivoluzionario, sovversivo, perché ha modificato gli usi, i costumi e i consumi di quella gente. Arrivata a 500, a Vespa, arrivato a lavabiancheria, a cucina a gas. C'era uno che girava per il paese col megafono. Aggiustiamo cucini a gassi! Aggiustiamo cucini a gassi, quasi poesia. Ma poi come al solito fanno i palazzi, e si scordano le scale, le infrastrutture, le vie di comunicazione per il trasporto delle merci o per gli addetti alle lavorazioni sono praticamente inesistenti. Per non parlare poi delle vie di fuga in caso di incidente. E ancora adesso la testa, la mentalità è così. Vogliono fare il ponte sullo stretto, ma ancora oggi nel 2012 per fare da Siracusa a Trapani con il treno ci vogliono 10 ore e 4 cambi. Però vogliono fare il ponte sullo stretto. È come se tu ti compri un bel paio di scarpe nuove, però vai in giro nudo, con culi fuori, la stessa cosa. Bisogna dire comunque che il processo di industrializzazione ha portato progresso nella zona. Prima i nonni erano tutti pescatori e campagnoli, i figli operai, i padri operai, i figli impiegati e i nipoti adesso studiano tutti e sono tutti dottori. Di tutto ride figo però. C'erano una volta 10 bambini che camminavano uno avanti all'altro in fila e passarono sotto un albero di fico. Quest'albero aveva un ramo più basso degli altri e alla fine di questo ramo c'era un fico. Passa il primo bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo. Passa il secondo bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo. Passa il terzo bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo. E così il quarto e il quinto. Passa il sesto bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo, ma ormai non ci vuole molto. Passa il settimo bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo, ma ormai non ci vuole molto. Passa l'ottavo bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo, ma ormai ci vuole poco. Passa il nono bambino, tocca il fico e dice: ancora non è maturo, ma ormai ci vuole poco. Passa il decimo bambino, tocca il fico e dice: è maturo. E la resina della buccia gli fece gonfiare il labbro a dismisura, come a chi ti dà la cernia. E da quel momento e per sempre quei bambini, quando lo volevano prendere in giro, chiamavano dottori dei fico. Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisce. Sogno in campagna e aspetto un pisce, perché un pisce prima o poi arriva con un campagna, ogni cosa costa. E l'industrializzazione nella provincia di Siracusa, nella zona dei Monti Blei, ha avuto un costo altissimo, salato. Malattie professionali, neoplasie, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del sottosuolo. E bambini nati con malattia. Negli anni 50 si parlava di salute e di ambiente. Certe cose manco il ministero le sapevano. Ci furono delle morie di pesci che vennero collegate con l'aumento delle microalghe nelle zone portuali, che fecero sospettare come tutto questo potesse essere collegato con l'attività industriale. Dal 1950 al 1980 la percentuale di morti per tumore aumenta in maniera esponenziale. Dal 51 al 56 l'8,9% della popolazione muore di tumore. Dal 76 all'80 il 23,7%. È stato un successo. Ma soprattutto si capisce come alle donne non gli viene il tumore ai polmoni. Forse perché non fumano. Io per necessità mi sono dovuto documentare. Parole testuali di uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle aree ad alto rischio di crisi ambientale. Nell'area di Augusta, Priolo e Melilli i risultati mostrano un profilo di mortalità differente per i due sessi. Si registrano infatti eccessi significativi concentrati nelle zone più vicine al petrolchimico, solamente per gli uomini, nelle cause tumorali e nel tumore polmonare, mentre tra le donne non si registrano eccessi di mortalità. Inoltre il rischio di contrarre un tumore polmonare sempre negli uomini è in aumento per le generazioni più giovani, fatto che fa prevedere il persistere di rischi elevati negli anni futuri. Un altro studio dell'Enea analizza 6 comuni aggregati tra di loro, Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino, e dice così. Nella popolazione maschile dell'area si ha un eccesso sia di mortalità generale, più 3%, che di mortalità di tumori di trachea, bronchi e polmoni, più 16%, che della pleura, più 201%. Nelle donne un eccesso statisticamente significativo della mortalità per cirrosi epatica, più 28%. Disaggregando i 3 comuni, Priolo, Augusta e Melilli, si evidenzia un eccesso di mortalità maschile per i tumori più 14, tra cui emergono trachea, polmoni e bronchi più 30, della pleura più 291, mortalità femminile per cirrosi più 64. Questi dati confermano il peggiore stato di salute della popolazione maschile rispetto a quella femminile, legato alle esposizioni di tipo professionale rispetto a quella ambientale. Il Ministero della Salute, alleluia, si è svegliato finalmente. Mette tutto in relazione sia alle conseguenze di abitudini di vita personali, quindi tipi sigarette, ma soprattutto all'esposizione all'amianto e a fattori inquinanti ambientali di tipo professionale. Eppure l'Istituto Superiore della Sanità conferma questa cosa e fa un lungo elenco di sostanze cancerogene che regolarmente vengono scaricate nell'aria quando devono pulire gli impianti. Ci fa uno studio anche la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo e dell'Università di Catania. Chi sarà gente partita sana e tornata malata? Per travagliare, per mangiare, per vivere. Malati Ige e malati i loro figli. Con una differenza però, che loro ci sono diventati malati. I loro figli ci sono nati. Io ci sono diventato malato. Tu ci sei nato. Nel 1980 l'1,5% dei nuovi nati nasce con malformazioni congenite, in linea con la media nazionale. Nella prima metà degli anni 90 il 3%, nella seconda metà degli anni 90 il 3,5%, nel 2000 il picco, 5,6%. Canovaccio, sai che facciamo, figlio mio? Lo arrotondiamo al 6%, così, per licenza poetica. Chi se sui numeri dato terra? Dal 90 al 98 bambini nati con malformazioni congenite, nella Sicilia occidentale 2,12, nella Sicilia orientale 2,16, nella provincia di Siracusa 3,12, ah niente! Aumento delle malformazioni al cuore e alla circolazione, valore nazionale 143,65, tinuace 221,43, ti disse che non è niente! Aumento delle malformazioni all'apparato digerente, valore nazionale 93,20, tinuace 164,29, ancora ci credi tu, ti disse che non è niente! Aumento delle malformazioni all'apparato urogenitale, valore nazionale 148, tinuace 214,29, ti disse che non è niente! Ci fu un anno a Melilli in cui gli addetti al comune invitavano la popolazione a chiudersi in casa perché stavano scaricando queste sostanze nell'aria per pulire i serbatoi. Ambuttosatevi d'incia, ambuttosatevi d'incia! La gente scappava in casa, prendeva lo scotch e nastrava le finestre per non far entrare l'aria. E quei poveri disgraziati che sono rimasti fuori camminavano e mentre vomitavano. Ambuttosatevi d'incia, ambuttosatevi d'incia! Ti disse che non è niente! Chi sta è la terra che ammazza i suoi figli? Come a Medea. Cano a volte erano tutti pescatori e quando morivano i figli gli lasciavano una barca. Cano a volte erano tutti campagnoli, quando morivano i figli gli lasciavano un pezzo di terra. Ora sono tutti dottori, i dottori dei figli però. E quando muoiono i figli ci fanno testamento di carne all'ovale. La sua testa a Lubaruni, che ci serve per i lampioni. Lo cerveggio agli sperruni, che su senza la ragione. E la sua lingua di ruffiani, che ci serve per liccare. E la sua rente ai senatori per mangiare i sedinari. E la sua bucca all'avvocate per contare dei minchiati. E la sua ricchia di nutare, che ne fanno calamare. La sua merda alle scarpare, che ci serve pancerare. E la sua lugna ai cavalieri, che ne fanno tabacchiere. La sua mano alle parrene per toccare i signorini. E l'upilo alla zamonica che si fa una beggia tonica. Lu capiscio e lu varduni, ci lu lasso a lu pagioni. Chi sto te lasso? Io mi chiamo Tanino Giarrusso e aspetto un pisci. Sogno un campagna e aspetto un pisci, perché un pisci prima o poi arriva pure un campagna. A mio figlio ci manca un pezzo da ricchia. A mio figlio ci manca un pezzo di naso. A mio figlio ci manca un pezzo di cielo. A mio figlio ci manca un pezzo di mano. A mio figlio ci manca un pezzo di pere. A mio figlio ci manca un pezzo di sole. A mio figlio ci manca un pezzo di braccio. A mio figlio ci manca un pezzo di anno. A me figli c'ha manco un pezzo di mare. A me figli c'ha manco un pezzo di testa. A me figli c'ha manco un pezzo di panza. A me figli c'ha manco un pezzo di terra. A me figli c'ha manca che parte va a guerra. Adesso vado io, eh? Faccio gli esami ma ritorno, non ti preoccupare. Sai quante cose ti devo raccontare ancora? Le senti queste femmine cuttigliare che ne scassano una minchia a noi? Sa concetto, avete sentito? Danilo Giarrusso va in ospedale a fare degli accertamenti. Bì, vero mi dite? Speriamo che non sia niente di grave. Mi raccomando, non lo dite a nessuno che ancora non si sa, pare che abbia un brutto male, state tranquilla. Voi lo sapete, io sono una tomba.